Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Gibilterra è una delle cinque terre e voi direte di no, e invece un pochino sì, e noi vi porteremo là e vi dimostreremo che è così, ma adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata. Iniziati i prelievi nelle acque di Gibilterra. Ci colleghiamo con la barca Adriatica in missione di ricerca promossa dal Parco delle Cinque Terre. Cappuccetto Rosso fa sempre testo. Possibile che i lupi siano sempre cattivi? In Italia, anche in questo caso, si parla di ronde. Al Senato non piace il solare termodinamico. Come mai, visto che la comunità scientifica lo ritiene una buona opportunità energetica? Vita reale creata dai computer. È accaduto questa estate e nel clima vacanziero la notizia non ha raccolto la dovuta risonanza. Andiamo allora. Nel mare di Gibilterra ci stiamo per collegare con la barca Adriatica. Vediamo se ce la facciamo. Pronto Adriatica? Pronto, la sento, dottore. Silvia Merlino è in collegamento con noi del CNR di Parma. È sulla barca Adriatica per le operazioni di comunicazione scientifica. Ho qui con me anche Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Buonasera Silvia. Buonasera. Sentirete ascoltatori che c'è un certo ritardo perché il collegamento è satellitare. Sì, ormai anche un po' disturbato. È un po' disturbato. In che punto siete esatto? Diteci dov'è la barca adesso. Allora, adesso la barca sta puntando verso costa, Cabo de Gata. Ma stanotte siamo stati in mezzo al mare, proprio in mezzo allo stretto tra la costa africana e quella spagnola, circa 50 miglia marine di distanza dalle due coste. Okay. Voi state puntando alla costa europea? In questo momento sì, stiamo puntando alla costa europea per poter trasmettere i dati raccolti in questa prima fase della campagna. Da quanto tempo siete in mare, Silvia? In mare aperto da due giorni. Da due giorni. Noi ci siamo, abbiamo presentato la vostra missione la settimana scorsa, che era pochi giorni prima di partire, e adesso infatti siete in mezzo al mare. Allora, il Parco delle Cinque Terre è il promotore di questa iniziativa, insieme con anche Ocean Team, che è la struttura che ha organizzato la cosa sul piano proprio tecnico, e voi siete lì perché in questa zona di mare ci sono delle cose molto particolari da studiare, no? Esatto, abbiamo un'equipe a bordo di ricercatori del NOX, che è un istituto di oceanografia di Southampton, che si occuperà di due ricerche in particolare dovute alle condizioni molto appunto particolari di quest'area. Una verte sulla biologia marina, quindi raccolta di microrganismi in queste acque e il loro studio, e l'altra è più di oceanografia marina, dedicata allo studio della turbolenza di queste acque. Che cosa state facendo adesso, per esempio, proprio dal punto di vista tecnico? Che strumenti state usando per quanto riguarda la turbolenza di queste acque? Sì. Allora, stiamo usando uno strumento, una specie di siluro di 2 metri che viene calato in acqua e porta con sé dei rivelatori di salinità, pressione, temperatura, turbolenza e opacità dell'acqua. Viene calato a una profondità di circa 250 metri. Mm-hmm. Questa operazione viene ripetuta circa ogni 6 miglia, quindi noi abbiamo passato tutto ieri e tutta la notte fino alle 4 di mattina a spostarci piano piano di 6 miglia alla volta, e per ogni step calavamo lo strumento circa 6-7 volte per poter raccogliere più dati e fare una migliore statistica. Questa è la fase di raccolta dati, poi ovviamente arrivando in terraferma riuscite anche a elaborare qualcosa già da lì, o dovete assolutamente prima raccogliere tutto e poi tornare a casa? Allora, è molto difficile riuscire a dare dei risultati da qui. Sono dati che vanno elaborati molto attentamente con la strumentazione del centro di ricerca, però una prima idea si può avere, ecco, soprattutto sul parametro della temperatura hanno trovato qualcosa di particolare dovuto proprio a queste due correnti marine che sono presenti in questo stretto, che si scontrano, e quindi già sui dati della temperatura abbiamo qualcosa. Va bene, allora aspetteremo i risultati. Invece io sono un po' curiosa, dal punto di vista biologico, che tipo di analisi state facendo? Avete trovato qualcosa di particolare? Sì, allora, la raccolta dei dati biologici, anche quella va poi supportata da uno studio in laboratorio, però la parte dedicata alla biofluorescenza, con uno strumento questa notte abbiamo osservato che ci sono alcuni picchi di bioluminescenza, quindi qualcosa c'è. Poi naturalmente tutti i dati che sono stati presi e dati di DNA e RNA congelati nel freezer andranno poi studiati col microscopio elettronico in laboratorio per poter fare delle analisi quantitative, ma insomma pare che ci sia qualcosa. Silvia, io so che cos'è la bioluminescenza, ma vorrei che lo spiegasse anche al largo pubblico. È un fenomeno molto molto particolare e veramente suggestivo da vedere. Sì, è molto bello da vedere. Noi purtroppo stanotte abbiamo rilevato qualche caso sporadico, ma non quei bellissimi bloom che si vedono ogni tanto, che riempiono grossissime superfici di mare di questi microrganismi che mettono luce perché contengono un gene che si chiama luciferasi. In condizioni particolari di turbolenza, ed è per questo che noi ricerchiamo in questa zona, questi animaletti, chiamiamoli, emettono una luce che può essere bianca, può essere blu, ed è molto bello da vedere e anche da studiare. Io ricordo, per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, che questo luogo, questo habitat intorno a Gibilterra è fondamentale perché ha dei riflessi, può sembrare strano, ma insomma è così, ha dei riflessi un po' su tante altre aree del Mediterraneo. Bene, grazie Silvia Merlino, auguri anche agli altri che sono in barca e poi quando avrete i dati ce li racconterete. Grazie. Grazie. Questo era tutto da Gibilterra. Vi ricordo che questa è la prima volta che si effettua una ricerca in oceanografia su barca a vela. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui bisogna prendere una decisione, li vogliamo o non li vogliamo questi lupi? Guardate che a loro dobbiamo moltissimo, noi ne abbiamo già parlato qui in trasmissione, perché tutti i cani di tutte le forme, quelli che portiamo a spasso la sera, discendono dai lupi, insomma ci vuole un po' di rispetto. Va bene, adesso però Chiara Albicocco vi spiega perché dobbiamo parlare di lupi in questa puntata. Da sempre antagonista nelle favole o protagonista malvagio. Partendo da Cappuccetto Rosso fino ai Tre Porcellini, passando per Pierino e arrivando ai Sette Capretti, sì, sto parlando proprio di lui, del lupo cattivo. C'era una volta, si suol dire all'inizio di ogni novella, ma c'è ancora. Nel XXI secolo, a un passo da Marte, permane la paura del lupo mannaro. Di pochi giorni fa infatti la notizia di istituire in Piemonte le ronde antilupo pensate dalla Coldiretti per difendere le mandrie e i greggi dall'attacco dei predatori. Tempo e soldi buttati, vien da dire, quelli spesi dai ricercatori e dai parchi per ripopolare questa specie, simbolo del nostro paese, che proprio a causa dell'attività venatoria era ridotta all'estinzione. Qui con noi stasera c'è una persona che ha impegnato molti anni della sua vita nella ricerca sull'ecologia e l'etologia del lupo in diverse zone della nostra penisola. È qui con noi stasera Marco Apollonio. Buonasera professore. Buonasera. Lei è biologo e direttore del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Sassari, ma è anche coordinatore di diversi campi di ricerca sui grandi mammiferi e in particolare sul lupo. Quindi ci spieghi un po', chi meglio di lei, anzi ci può spiegare del lupo e di dove operate e come operate con il suo numeroso gruppo di ricercatori sparsi un po' in tutta Italia. Guardi, noi attualmente lavoriamo sugli Appennini e sulle Alpi, sugli Appennini in particolare in Toscana, in provincia di Arezzo, dove abbiamo una stazione di ricerca finanziata dalla provincia e dalla regione toscana, che ci permette ormai da 11 anni di raccogliere dati sulla popolazione di lupi in provincia di Arezzo, che è probabilmente l'unica provincia, senza probabilmente l'unica provincia italiana che ha una serie storica di dati così lunga e così completa. Dopodiché siamo sempre in Toscana, in provincia di Pisa e la tenuta di San Rossore. Recentemente è comparso un lupo, un solo lupo, un maschio, e abbiamo lavorato prima in Val di Susa e attualmente lavoriamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e in generale in Valle d'Aosta abbiamo un rapporto sia con la regione sia con il parco. Tra poco avremo la possibilità di sentire alcuni di vostri ricercatori da un contributo audio durante il momento clou della ricerca dei branchi di lupo, ma che tipo di studi svolgete in queste aree, che tipo di analisi fate e che tipo di informazioni raccogliete? Essenzialmente tre tipi di informazioni. La prima è un monitoraggio che condotto a lungo termine permette di avere un'idea di quella che è la dinamica delle popolazioni delle diverse aree che stiamo seguendo. Quindi quanti individui quindi quanti compongono la popolazione? Branchi sono presenti, se i branchi si riproducono meno, la riproduzione viene accertata mediante l'analisi di sonogrammi che poi vengono analizzati in laboratorio e attraverso tracciature e questa è la seconda linea di ricerca, attraverso l'analisi genetica che facciamo su ogni segno di presenza, diciamo, biologico che troviamo, quindi andiamo dall'analisi degli escrementi, dei peli che si trovano, del sangue che talvolta si trova nel mese di febbraio sulla neve. E la terza cosa che facciamo è lavorare sul rapporto preda-predatore con gli ungulati selvatici. Io ho cominciato la mia ricerca occupandomi di ungulati selvatici, sono, diciamo, approdato al lupo in quanto predatore di ungulati, dopodiché ho cominciato a occuparmene perché è un animale decisamente affascinante anche come specie a sé stante. Quindi monitorando contemporaneamente popolazioni di ungulati, popolazioni di lupo e valutando la dieta del lupo, l'impatto della predazione del lupo sugli ungulati con l'uso di radiocollari applicati alle potenziali e di fatto reali prede e unendo questi dati fra di loro. Per tanti anni il lupo non se l'è passata certo bene, voi avete lavorato affinché fosse tutelato e tornasse anche a popolare alcune delle zone in cui proprio era scomparso. Ecco, a causa soprattutto dell'attività venatoria appunto delle prede, questa è una delle cause. Ma una delle cause è stata sicuramente la scomparsa delle prede che non attribuirei all'attività venatoria in quanto tale, ma ai tempi della scomparsa, stiamo parlando dei primi del Novecento, se non addirittura la metà dell'Ottocento, ha un fattore che potrebbe definirsi molto semplicemente fame nella popolazione umana, quindi gli ungulati selvatici sono scomparsi sia per forti modificazioni ambientali, ogni angolo d'Italia era occupato, se lei va in montagna praticamente ovunque trova casali, cascine abbandonate, sia per il fatto che rappresentava una fonte di proteine per la nostra specie. Attualmente le cose sono radicalmente cambiate e questa è sostanzialmente la grande ragione per cui il lupo è aumentato. Poi per quanto riguarda la sua protezione e la sua tutela, direi che la conoscenza è l'elemento fondamentale, soprattutto quello di partenza. E in questo senso va ricordato che noi abbiamo un obbligo come paese membro della Comunità Europea di monitorare il lupo come specie prioritaria, obbligo che viene rispettato in poche aree in Italia. Io ho fatto esempio la provincia d'Arezzo, probabilmente, ripeto, l'unica provincia italiana che ha dati così a lungo termine. Possiamo capire che la convivenza tra gli animali domestici, quindi i gregi, le mandrie e il lupo, possa non essere facilissima, e capiamo anche che in questo momento le ronde vanno molto di moda, ma se volessimo veramente proporre una soluzione, chiamiamola alternativa, forse anche meglio dire intelligente, che possa consentire una convivenza pacifica o comunque che le pratiche di allevamento contemplino anche la presenza dei predatori. Ma guardi, esistono dei metodi di prevenzione che indubbiamente hanno dei costi, perché è inutile prendersi in giro, ma che altrettanto indubbiamente risultano in molte occasioni efficaci, che vanno dall'uso di cani per la difesa delle gregi che siano effettivamente in grado di fare questo, di svolgere questo ruolo, al fatto di ricoverare nelle ore notturne quando è possibile le gregi, al fatto comunque di non lasciare animali domestici incustoditi per lunghi periodi. È chiaro che il grosso problema nasce da un lato dai costi di tutto questo, dall'altro dal fatto che il lupo compare in aree dove è stato assente per un secolo e mezzo, e dove si è persa memoria di questo tipo di pratiche che invece sono rimaste in uso in modo continuo in altre aree del nostro paese, ricordo per esempio l'Abruzzo, dove il lupo è stato una presenza costante e non è mai diminuito in modo significativo o scomparso. Ecco, pensa che potrebbero essere utili in questi gruppi di volontari chiamati a vigilare così le mandrie e i greggi proposti da Coldiretti? Ma sa, se noi intendiamo questo come un'operazione di guardiania, sicuramente sì. Se gli diamo un po' il connotato, se vuole, anche che attualmente si dà alle ronde in un'accezione ben diversa, in un contesto ben diverso, scarsamente. Se sono persone preparate, che sanno quello che stanno facendo, non fanno né più né meno di quello che fa un pastore. E diciamo l'aiuto pastore, ecco, potrebbe essere una soluzione. Se è un'iniziativa estemporanea che poi prelude a abbattimenti indiscriminati, non mi sembra molto opportuna. Voglio dire, tutto si può fare, il problema è che le leggi vanno rispettate. Attualmente il lupo non è soltanto una specie protetta, ma anche una specie prioritaria per il nostro paese e per la comunità europea. Quindi soluzioni che prevedano scorciatoie mi sembrano A, illegali, B, poco utili, perché è stato dimostrato in molte aree d'Italia dove che il bracconaggio poi risolve il problema in modo temporaneo, dopodiché il problema si ripropone. Va bene, professore, io la ringrazio e ora ascoltiamo al microfono della nostra inviata Saro Chipinti uno dei suoi collaboratori, il responsabile del progetto Lupo, Andrea Gazzola, insieme alle due giovani ricercatrici Elena e Daniela. Dall'Oasi di Protezione Alpe di Catenaia, in provincia di Arezzo, ci raccontano come svolgono il loro lavoro nel cuore della notte, quando i branchi di lupi si aggirano indisturbati. Stiamo partendo ora dal centro studi faunistici Casa Stabbi, che si trova nel cuore dell'Oasi Alpe di Catenaia sull'Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Arezzo, per cercare di trovare un branco di lupi. Elena, come si stimolano questi lupi? Che strumentazione serve? Allora, noi abbiamo un amplificatore collegato a una tromba esponenziale. Questo amplificatore va in un mangianastri, in cui c'è una cassetta su cui è registrato l'ululato di due lupi in cattività. E facendo andare la cassetta, attraverso la tromba esponenziale esce questo ululato e i lupi possono sentirlo. E noi simuliamo un branco di lupi estranei nel territorio del branco che stiamo monitorando. L'ululato del possibile branco presente nella zona poi come viene registrato? Viene registrato attraverso un microfono direzionale e molto molto potente, capace di captare un segnale anche a distanze notevoli, dotato di cuffie antivento e una sospensione microfonica, registrato attraverso appunto un registratore digitale, per cui direttamente da trasferire nel computer. Una volta che riusciamo a trovarli, come facciamo a capire qual è la loro posizione e qual è il loro numero? Ora, noi abbiamo anche un GPS che ci dà la nostra posizione e poi una bussola che praticamente traguardiamo, cioè indirizziamo, sappiamo l'angolo, la posizione e la distanza della risposta rispetto alla nostra posizione. Quindi più o meno individuiamo un'area. Poi dopodiché ci spostiamo in un altro punto e rifacciamo la stessa operazione, in maniera tale da individuare due rette che si incontrano nel punto dove stanno i lupi. Ed è possibile capire anche se ci sono dei cuccioli? Sì, assolutamente sì, perché in questo periodo, nel periodo estivo, i cuccioli hanno un ululato più acuto rispetto a quello degli adulti, quindi sono come delle voci bianche, sembrano dei neonati che piangono. Siamo arrivati a destinazione, stiamo facendo tutto pianissimo per non disturbare gli animali. C'è un recinto di mucche qua vicino, siamo su un promontorio. I ragazzi emetteranno un ululato registrato. Abbiamo appena eseguito il primo punto. Siamo risaliti in macchina. Le missioni sono state due, intervallate da 2 minuti di pausa per aspettare l'eventuale risposta del branco o di qualche lupo singolo. Adesso proseguiamo il nostro giro. Andrea si sta preparando ad emettere, Daniela a ricevere. Dopo questo ululato aspetteremo 2 minuti che i lupi rispondano. Per il momento nessuna risposta. Finalmente al penultimo punto una risposta, non ci sembra quasi vero. Solo le 5. Stanchi ma soddisfatti ci avviamo verso casa. Più di un'ora e mezza, se tutto va bene non ci perdiamo, ci separa dal letto. Ma la gioia di aver sentito un branco di lupi in libertà con i loro cuccioli ha ricompensato tutte le nostre fatiche. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dicevamo nei titoli un po' divertiti che il Senato della Repubblica, il nostro Senato, non vuole il solare termodinamico. È un po' strano dirla così, però così è. Cosa volete che vi dica? Ascoltate Maurizio Melis e i suoi ospiti e vedrete che ho ragione. La seduta del Senato dello scorso 28 luglio ha avuto per tema la promozione dell'energia solare. A questo proposito sono state presentate 4 mozioni da parte di PDL, Lega, Partito Democratico e Italia dei Valori. In particolare ha fatto molto discutere la mozione del PDL, la numero 155, a firma tra gli altri di Dell'Utri, Gasparri e Quagliariello, a seguito della quale sono venute critiche da parte di chi soprattutto è impegnato sul fronte delle rinnovabili e in particolare sul cosiddetto solare termodinamico. Il testo della mozione, diciamolo subito, non ha effetti pratici immediati e anzi impegna il governo a promuovere l'energia fotovoltaica, l'eolica e l'energia da biomasse. Tuttavia, ecco, gran parte del testo consiste di una forte critica al solare termodinamico, una tecnologia verso la quale soprattutto in Italia ci sono molte aspettative. Ne parliamo con i nostri ospiti, a cui do il benvenuto, che sono l'onorevole Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Buonasera Saglia. Buonasera. E il presidente dell'Enea, Luigi Paganetto. Buonasera Paganetto. Salve. Dunque, chiedo a tutte e due di ascoltare la scheda che abbiamo preparato sul solare termodinamico e poi iniziamo il dibattito. Il solare termodinamico è una tecnologia per la produzione di energia elettrica. Un sistema di specchi parabolici concentra la luce solare su un tubo lineare, all'interno del quale scorre un fluido, detto fluido termovettore, che si scalda raggiungendo temperature di alcune centinaia di gradi. Con il calore prodotto viene quindi generato vapore ad alta pressione, che viene inviato a una tradizionale turbina per la produzione di energia elettrica. Le fasi finali di questo processo sono del tutto analoghe a quelle di una normale centrale termoelettrica alimentata a petrolio o a carbone, e difatti è possibile e conveniente integrare le due tecnologie in uno stesso impianto. Ma la caratteristica più importante del solare termodinamico è data dalla possibilità di accumulare il fluido termovettore all'interno di un serbatoio, da cui può essere attinto nei momenti in cui non c'è irraggiamento solare, per esempio di notte o quando è nuvolo. L'autonomia di un impianto simile in assenza di sole è infatti di alcuni giorni. Si tratta di una caratteristica molto importante, giacché proprio l'incapacità di fornire energia con continuità rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione delle rinnovabili. Attualmente il costo dell'energia prodotta con il solare termodinamico non è competitivo con quello dei fossili. Tuttavia, sono in molti nella comunità scientifica a scommettere che non ci sarà da attendere molto prima che ciò accada. L'Italia, e in particolare l'Enea, è oggi il leader mondiale in questa tecnologia, grazie anche al progetto avviato dal premio Nobel Carlo Rubbia alcuni anni fa, che, unico al mondo, utilizza come fluido termovettore un mix di sali fusi capace di superare i 600 gradi. L'alta temperatura è infatti decisiva per garantire un rendimento elevato. Il primo impianto di questo genere si chiama Archimede e si trova in Sicilia, in provincia di Siracusa. Si tratta di un impianto dimostrativo da 5 MW ed è nato dalla collaborazione tra Enea ed Enel. Diverrà attivo a fine anno. Bene, torniamo in studio. Allora, intanto chiedo a entrambi, ecco, se avete delle precisazioni da fare rispetto alla scheda. Ecco, chiedo per primo a lei, Paganetto. No, mi pare che la scheda sia piuttosto rispondente a quello che noi abbiamo sempre dichiarato, di quello che è la tecnologia oggi così come la conosciamo. C'è da aggiungere soltanto che in confronto con tecnologie simili, quelle che si fondano sull'olio, danno un vantaggio assoluto alla tecnologia nostra, e che il passaggio da una tecnologia di laboratorio a una tecnologia industriale, quella che sta realizzando il Priolo, è stato un punto importante per noi, perché certamente lì si vedrà, avendo un impianto in funzione, come concretamente si può realizzare questa produzione di energia, su cui noi contiamo molto, perché l'Enea è presente a livello internazionale in tante iniziative di cui poi magari parleremo. Ecco, dunque Saglia, che cosa non va nel solare termodinamico? Ma guardi, innanzitutto il governo ha ribadito il suo impegno nel sostegno e nella garanzia degli incentivi anche al solare termodinamico. Io, come rappresentante del governo, ho voluto ripetere questo impegno concreto anche nell'Aula del Senato. Le preoccupazioni dei senatori del PDL sono state quelle di denunciare con questa mozione il, a loro dire, eccessivo impatto degli incentivi sulla bolletta degli italiani. Lei sa che c'è una componente della tariffa della, che si paga dell'elettricità che va appunto a sostenere le fonti rinnovabili. Mm-hmm. Allora cosa dicevano i senatori? Dicevano se queste risorse vengono prelevate dalle tasche dei cittadini vengano utilizzate nella direzione di impianti più facilmente realizzabili rispetto ad altri. Noi abbiamo ritenuto comunque di approvare questa mozione perché la parte diciamo cosiddetta degli impegni non è in contraddizione con la linea del governo, ma confermando gli incentivi che sono quelli di 28 centesimi a kilowattora. Perché? Per le ragioni che diceva prima Paganetto, cioè il fatto che il solare termodinamico oggi non è ancora una tecnologia su larga scala, almeno in Italia. Però non possiamo permetterci di uscire da una sfida industriale che nei prossimi anni potrebbe diventare realtà, in particolare in paesi come quelli dei paesi del Mediterraneo, i Balcani, dove una presenza italiana è già significativa e dove l'industria italiana può svolgere un lavoro significativo e importante. I punti deboli quali sono? Quelli di dover avere grandi aree di occupazione del territorio per poter realizzare centrali di questo tipo. Il fatto che queste centrali non sono ancora completamente indipendenti, che spesso vengono diciamo localizzate laddove ci sono già centrali tradizionali, però noi crediamo che sia un'opportunità tecnologica che non debba essere persa e che quindi meriti di essere incentivata, tenuto conto però delle cautele che ci hanno chiesto i senatori, cioè il fatto che questo non sia un impegno esorbitante per le tasche degli italiani. Ecco, Paganetto, lei è d'accordo con Saglia, vuole replicare? Io direi che è importante fare un'osservazione che non c'è dubbio che gli incentivi vanno dimensionati alla capacità di innovazione che le fonti rinnovabili riescono a realizzare. Io credo molto all'esigenza di guardare al cambiamento tecnologico e quindi incentivare le rinnovabili non solo perché sono tali, ma perché producono innovazione. Nel caso della tecnologia del solare termodinamico, l'innovazione è molto forte, tant'è vero che noi siamo diciamo leader a livello mondiale, tant'è vero che ci viene chiesta la nostra tecnologia in Cina, io ho sottoscritto un accordo con a Canton proprio perché venga portata avanti questa tecnologia e viene ancora oggi sollecitata, ho sottoscritto un accordo con l'Egitto che ha la stessa propensione. Aggiungo che viviamo un momento di grande competizione tecnologica e per noi, per il nostro paese, e l'ha detto anche Saglia in un suo intervento, c'è una grande possibilità di fare investimenti nel Mediterraneo perché domani ci sarà un elettrodotto che viene dalla Tunisia sotto il mare e se noi potremmo investire in quell'area con la nostra tecnologia ci troveremmo a essere leader a livello internazionale in un'area che certamente non ha problemi di territorio, perché il deserto è certamente qualcosa che può essere utilizzato per produrre energia. Io credo che la questione importante è avere presente che questa competizione sulle tecnologie sta andando avanti in maniera molto forte a livello mondiale e noi ci dobbiamo entrare, l'Enea ci sta dentro, è chiaro che poi anche a livello nazionale ci sono delle iniziative, basta pensare che dei privati, e cioè gli industriali, del Lazio vogliono investire e hanno sottoscritto un accordo proprio su questa tecnologia, quindi vuol dire che sono fatti i loro conti sia riguardo all'uso del territorio che riguardo alle valutazioni in termini di rendimento, che sono destinate naturalmente a molto migliorare. Ecco, a proposito, quali sono i costi oggi del kilowattora da solare termodinamico e soprattutto quali sono in prospettiva? Beh, guardi, noi calcoliamo che oggi il costo siano 16 centesimi per kilowattora contro un costo diciamo della tradizionale di 7, ma stimiamo anche che nel giro del 2020-2025 possiamo arrivare allo stesso livello di costo e addirittura, secondo alcuni, addirittura a un costo minore delle tradizionali. Va aggiunto che il costo delle tradizionali è molto legato al prezzo del petrolio e naturalmente in questo caso non abbiamo problemi di combustibile, il sole non costa e quindi possiamo fare una valutazione del costo in prospettiva perché non dobbiamo tenere in conto le variazioni del prezzo del petrolio. Questo è molto diverso da quello che succede per il convenzionale. Dunque, onorevole Saglia, guardando un po' in giro, soprattutto sui siti e così via, si trovano diversi commenti rispetto a questa mozione. Ecco, là l'obiezione che viene mossa più di frequente è che nella mozione non compare proprio la tecnologia italiana, e questo credo che ha preoccupato molti. Lei ha detto durante il suo intervento in Senato che non si prevedono tagli né alla ricerca, direi, né agli incentivi. Allora, perché il governo sente bisogno e i parlamentari del PDL sentono il bisogno di fare questa critica, dimenticando insomma un po' proprio la tecnologia italiana? Ma perché il problema rinnovabile è un problema che aveva valutato togliendosi le lenti, diciamo, ideologiche. Noi siamo per raggiungere gli obiettivi europei. Per raggiungere gli obiettivi europei, quelli del 20% al 2020, abbiamo bisogno di tutte le fonti possibili, mm-hmm. di tutte le tecnologie possibili. È chiaro che purtroppo tutto questo ha un costo che a regime certo. potrebbe essere nell'ordine di 7 miliardi di euro. Mm. Ma siccome noi siamo il governo e quindi sicuramente ascoltiamo il Parlamento, abbiamo inteso questa mozione come un, diciamo, allarme sui costi di questa tecnologia, ma lungi da noi voler abbandonare una strada che non solo è la strada nella quale va tutto il pianeta, ma è anche una possibilità industriale e anche geopolitica. La posizione dell'Italia, come dicevamo prima, può diventare strategica soprattutto nel Mediterraneo e nei Balcani. Proprio per questo nelle prossime settimane io andrò a nome del governo in Tunisia a ragionare di questa possibilità, cioè dell'elettrodotto sottomarino, per cercare di fare in modo che il progetto cosiddetto Desert Tech che ha lanciato il presidente Sarkozy, che prevede la costruzione appunto di impianti molto estesi, molto grandi, sì, molto grandi nel Mediterraneo, possa essere un'opportunità anche per le imprese italiane. Quindi si sente insomma di garantire che non ci sono in arrivo tagli, soprattutto sul versante della ricerca, che mi sembra quello più, no, non ci quello più decisivo. Va bene, grazie allora onorevole Saglia, grazie presidente Paganetto, buonasera e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quest'estate sui quotidiani, in un clima vacanziero, all'incirca verso la metà di agosto, è uscita una notizia che per quanto riguarda la ricerca biologica, ma direi in generale la scienza, è stata molto importante. Questa notizia è stata prodotta dalle ricerche di Greg Venter, il grande scienziato che ha sequenziato il genoma umano per la prima volta nel 2000, e oggi questa sera cerchiamo di spiegare di che notizia si tratta. Per farlo usiamo il commento autorevole di Edoardo Boncinelli. Buonasera Boncinelli. Buonasera. Genetista al San Raffaele, che raggiungiamo verso sera su una spiaggia greca, direi, no? Sentiamo dei fondi d'acqua. L'isola di Rodi. Va bene, è lì un po' in vacanza. Allora, senta Boncinelli, noi abbiamo una serie di passaggi di una conferenza che ha fatto Greg Venter poco tempo fa, pochissimo tempo fa, annunciando quello che stava per produrre, ed è infatti la notizia a cui prima mi riferivo. Adesso sentiamo un po' di questi passaggi che io poi rapidamente traduco e le chiederò qualche commento. Sentiamo insieme. So we've always been trying to ask big questions. Qui Venter dice: ci siamo da sempre fatti grandi domande. Che cos'è la vita? Credo sia qualcosa che molti biologi hanno cercato di capire a diversi livelli. Abbiamo tentato diversi approcci, come quello di individuare dei componenti fondamentali della vita. E qui ricordo che Greg Venter, appunto, come dicevo prima, ha sequenziato il genoma nel 2000, il genoma umano, per la prima volta, usando moltissimo hardware e software sofisticato. Da quel momento, in altre operazioni analoghe, il gruppo di Venter è progredito nell'uso di computer per la ricerca biologica. Ed è così, infatti, che si arriva negli ultimi tempi nei quali... Sentiamo Venter. Now we're trying to ask, can we regenerate life? Or can we create new life out of this digital universe? Qui lui dice: ci stiamo chiedendo, è possibile generare forme di vita, ovvero possiamo creare nuova vita a partire da questo universo digitale? Greg Venter descrive ora brevemente in quale direzione troviamo una risposta. Nella conferenza da cui è tratta questa registrazione, Venter mostra a questo punto una diapositiva per dire: this is the map of a small organism, Mycoplasma genitalium. Questa è la struttura genetica di un piccolo organismo che si chiama Mycoplasma genitalium, un organismo che ha il più piccolo genoma fra quelle specie che sono in grado di replicarsi in laboratorio. Noi abbiamo tentato di capire se è possibile ridurre ancora di più questo genoma. Abbiamo visto che possiamo tirar via un centinaio di geni dai 500 che possiede questo organismo, ma si tratta, dice Venter, di una struttura molto semplice se confrontata con quella umana. Le chiedo, Boncinelli, in questo passaggio Venter dice che insomma non abbiamo bisogno di tutti i geni che ha un organismo per avere comunque una struttura che resti vitale. Ma per vivere in laboratorio, dove non c'è nessuna competizione, per vivere in laboratorio si può fare a meno di molti geni. Se però lo stesso micobatterio andasse nel mondo aperto, sicuramente avrebbe bisogno di tutti quelli che ha. Ok, quindi è una condizione sperimentale quella a cui si riferisce. Va bene, sentiamo ancora Venter. But when we look at all the genes that we can knock out one at a time, it's very unlikely that this would yield a living cell. E comunque, dice Venter, se pensiamo di tirar via i geni uno alla volta, bene, questo è un procedimento che molto difficilmente può condurre a una cellula vivente. Allora abbiamo deciso che l'unica strada vincente potesse essere sintetizzare un cromosoma e in questo modo farne variare tutte le componenti in modo da rispondere a quelle domande fondamentali di cui si diceva. Si chiede Venter, possiamo avere una sintesi digitale di un cromosoma? Possiamo costruire chimicamente queste grandi molecole, cosa che non è mai stata fatta prima. E se ce la facciamo, possiamo boot up un cromosoma. Qui Venter usa volutamente un termine da computer, boot up, da computer science, ovvero far partire un programma che dà alla fine un cromosoma. E Venter qui conclude dicendo perché alla radice un cromosoma è una porzione inerte di materiale chimico. Chromosome, by the way, is just a piece of inert chemical material. Ecco, questa conclusione di Venter, cioè che appunto un cromosoma è una porzione inerte di materiale chimico, insieme a questa prassi, a questa procedura di digitalizzare il cromosoma. Ecco, vogliamo, Boncinelli, riuscire a sciogliere un po', a spiegare questa cosa che sembra effettivamente eccezionale, insomma. Ma Venter ha certamente il dono di fare cose sensazionali. Ha detto qualche tempo fa, fino adesso abbiamo letto il materiale inerte, d'ora in poi lo dobbiamo scrivere. Ok, è chiaro a biologi, ma non è chiaro a tutte le persone della strada, è che la vita è tutta scritta in una molecola di DNA ed è scritta con un alfabeto, esattamente come un qualsiasi messaggio di una lettera o del computer. La novità dell'esperimento è quella di costruire prima il messaggio e poi vedere se funziona una volta messo in una cellula. Siccome ormai sappiamo che funziona, direi che abbiamo così brillantemente confermato che si può costruire la vita al nostro giacimento, intendendo però che poi per un organismo superiore non basta soltanto l'apporto informativo del DNA, ma ci vuole anche tutto un periodo di sviluppo, ci vuole tutta una vita. Qui forse è importante chiarire, perché quando si parla spesso di queste cose si va sempre immediatamente con l'immaginario molto più avanti. Il passaggio però è piuttosto importante, insomma, questa cosa che è avvenuta. Lei sta dicendo no, non significa che allora Venter in laboratorio adesso costruisca degli organismi completi che poi apre la porta e se ne vanno in giro per la città, insomma. Ci vorrà tempo. Ci vorrà un po' di tempo. Però è riuscito a cambiare completamente un processo. Cioè prima si lavorava a partire già dagli organismi viventi. Esistenti, e ora si può lavorare direttamente su quello che noi chiamiamo il genoma, cioè una lunga sequenza di lettere. Il bello è questo, che il genoma è scritto esattamente come i nostri messaggi, come i nostri libri, come le nostre lettere, e basta sostituire a volte una letterina e cambia completamente il messaggio, cioè le istruzioni per l'uso. Però qui c'è un uso forte, consistente di computer e di software che viene applicato alla genetica. Questo è vero, però il linguaggio digitale ormai è entrato nella cultura al di là dei computer. Sì. Noi sappiamo che tutta la vita è digitale e in particolare la genetica è digitale. Le chiedo un'ultima cosa, Moncinelli. Quale potrebbe essere il passaggio successivo, secondo lei, a partire da questa tecnologia così importante che lui ha introdotto? Venter ha capito che i batteri sono una risorsa fenomenale e sta cercando di costruire batteri opportunamente costruiti che possono fungere da termovalorizzatori, da purificatori, soprattutto dell'inquinamento che si trova nei mari, perché i batteri vivono nel liquido e potrebbero così trasformare addirittura il petrolio in qualcosa di utile. Grazie Boncinelli e buone vacanze, buon proseguimento di vacanze. Grazie. Arrivederle, buonasera. Sì, è abbastanza singolare questa notizia sui lavori di Greg Venter, arrivata durante il periodo delle vacanze e non ha di conseguenza ottenuto il rilievo dovuto, perché si tratta davvero di cosa notevole. Fra l'altro, intorno alla figura di Venter c'è un singolare dibattito, perché dopo un certo numero di anni passati nei laboratori di ricerca universitari, Venter ne è uscito, ha iniziato a lavorare in laboratori indipendenti, privati, e continua a ottenere sempre in questi ambiti, anche con sovvenzioni ad hoc, risultati notevoli. Quindi ci si chiede per quale ragione non gli sia già stato assegnato un premio Nobel, ma credo che ormai sarà inevitabile. Bene, Möbius termina qui per questa settimana. Buona serata a tutti e a tutte.